Vediamo che notizie ci sono oggi. Cara, cos'è successo nel mondo? Niente, caro. Niente di particolare. Nostro figlio è rimasto coinvolto in una rissa gigantesca al centro di Roma. Buongiorno, comunque. Ah, buongiorno. Beh. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo, no. Buongiorno. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Lo sbarco sulla luna è stato finito. Abbiamo fatto degli studi, settimane, e noi siamo arrivati a questa decisione. Siamo di qua, mutanda da fascia, pezzo di merda! Pezzo di merda! Te sputo, che fai? Buongiorno. Buongiorno, un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Tranquilli, tranquilli tutti, sapete quello che è successo ieri al centro di Roma. Ne parleremo probabilmente in altre occasioni, in altre trasmissioni, come probabilmente in OGM questa sera alle 21, sempre live, sempre su Runtime Radio. Ma in questo caso non parleremo di questo evento, di questa situazione, di questa cosa, della quale probabilmente forse un accenno avrei potuto anche farlo, perché rientra in un contesto, ma magari negli altri argomenti che tratteremo nelle prossime puntate probabilmente ci ritornerò, anche perché, a quanto ho capito che mi è stato detto questa mattina, questi si sono dati appuntamento alla prossima settimana, perché non abbastava, come diceva qualcuno, insomma, non abbastava. E invece oggi io vorrei parlare di una cosa un po' più semplice. Mi sono trovato spesso e volentieri durante queste settimane, forse durante questi mesi, a fare affermazioni tipo: la democrazia presta il fianco a una crisi come quella del Covid, dove, come se democrazia in quanto sistema fosse più debole rispetto ad altre forme di governo, diciamo, da questo punto di vista, dove la gestione della crisi diventa ovviamente più semplificata, tra virgolette, per quanto una crisi possa essere semplificata, perché c'è tutta una serie di passaggi e di contesti che vengono completamente bypassati da un sistema dittatoriale come quello cinese o di altro genere. La democrazia invece presta in questo particolare contesto il fianco a delle difficoltà interne sue, oggettive e anche probabilmente sistematiche, riguardo a quello che dovrebbe essere una condotta diciamo suggerita, indicata e poi che deve essere poi anche perseguita e seguita in qualche maniera. In realtà poi mi sono trovato anche a fare un ragionamento proprio su questa cosa, cercando di capire anche veramente qual è un po' il mio pensiero riguardo a questo, perché detto da parte mia, comunque, il fatto che la democrazia è un fallimento rispetto a questo contesto qui, mi porta comunque a ragionare a quanto durante tutto il resto della mia vita, durante i miei anni giovanili, ho fatto parte di quelle forze politiche italiane che difendevano la democrazia, che hanno provato a difendere la democrazia, che l'hanno sostenuta, che hanno combattuto e manifestato contro tutte quelle forme di degenerazione dal punto di vista legislativo, o comunque quei tentativi di portare ovviamente un indebolimento della struttura democratica. E poi penso anche a tutti quelli che per questa democrazia oggi, che noi oggi comunque guardiamo con sospetto, che guardiamo con a volte indifferenza o a volte con il dubbio, questa democrazia è il frutto delle lotte di qualcuno ancora prima di noi, ma non le lotte di piazza come abbiamo fatto, come sono state fatte negli anni 70-80, ma nelle lotte partigiane, nelle lotte di guerra, nelle lotte per la liberazione, nelle lotte dove la gente perdeva la vita rispetto a tutto questo tentativo di instaurare un qualcosa di nuovo, più liberale, più alla portata dei diritti umani, dove poter costruire uno stato di diritto, dove appunto il diritto di essere individuo e di essere libero veniva al primo posto, così come poi alla fine in teoria in tutta quella parte del mondo allargato occidentale, insomma, lo stato di diritto diventa un atto fondamentale, così come i diritti dell'umanità. E questo mi ha fatto molto riflettere, perché in effetti oggi come posso io, se non per un atto di stizza, di nervosismo, di atteggiamento da umarella, no? Dal vecchietto, quello che sta lì e dice ci fossi stato io, capite? E questo veramente mi ha fatto fare molte considerazioni, e vorrei che le faceste un po' tutti, perché penso che a volte ci viene un po' il dubbio, no? Che il fatto che c'è qualcosa in questo sistema che non ha funzionato e che non funziona soprattutto, e che ci fa magari inneggiare al però vedi quelli come fanno meglio. Sicuramente dal punto di vista gestionale, più guardando la cosa più asetticamente e non pensando al fatto che comunque la gestione di uno Stato implica anche il rapporto con gli esseri umani che sono all'interno dello Stato, se uno lo guarda da quel punto di vista dice certo, è facile così, chiudi tutto, se esci da due bastonate abbiamo risolto il problema, no? In realtà poi alla fine mi sono reso conto, ma mi sono potuto rendere conto proprio durante questi giorni, magari anche parlando con la gente e venendo anche da una generazione diversa, magari da quelli che sono nati negli anni 90, quelli che sono nati negli anni 2000, no? E quindi venendo da una generazione che in realtà, diciamo, l'ha conosciuto lo Stato in una maniera diversa da come è oggi, lo Stato di cose poi in particolare, ma anche lo Stato italiano. In realtà mi rendo conto che secondo me non è veramente quello il problema, cioè non è la democrazia in sé il problema, perché la democrazia c'era anche negli anni 70 e c'era anche negli anni 80, anche se poi da lì già è iniziato un percorso degenerativo di cui abbiamo già parlato magari nelle puntate precedenti. Durante questa fase, durante il periodo in cui io ero un ragazzino, era la stessa identica democrazia che esiste oggi in Italia, però uno Stato, in particolare in quel caso un governo che veniva eletto, pur essendo un governo che veniva eletto e che poteva pagare comunque con le sue scelte, con la bocciatura elettorale nelle occasioni successive, un governo si prendeva le responsabilità istituzionali generali di quello che doveva essere fatto secondo la sua linea politica rispetto a quelle che potevano essere delle emergenze e delle crisi. Poi questo non significa che non c'erano le storture, le distorsioni, lasciando perdere il discorso eversivo, io parlo del fatto che quando si affrontava una crisi si mettevano su commissioni, cose, riuscivano a fare i soldi e poi la metà di questi soldi sparivano e alla fine ok. Però noi il vaiolo l'abbiamo combattuto perché c'era la campagna di vaccinazione. La campagna di vaccinazione era facoltativa o obbligatoria? Andate a cercare la risposta merito a questo se non eravate ovviamente presenti all'interno di quel contesto, di quella situazione. Però la cosa sulla quale dovete riflettere non è questo in quanto informazione, che è un'informazione magari che può esservi utile, è il fatto che cosa è cambiato rispetto ad oggi, al di là di tutto quello che alla fine sono, come posso dire, la disinformazione, la quantità di informazioni più o meno approssimative, false, corrette, dai quali è difficile districarsi nel mondo del social network e quindi non dal mondo dell'internet, perché non è internet il problema. Il problema è quello che è nato all'interno di internet e che ha tagliato completamente qualsiasi passaggio, ha accelerato completamente qualsiasi tipo di percorso, anche di andarsi a cercare l'informazione. Adesso l'informazione ti viene tirata addosso come un gavettone di piscio e tu non puoi far altro che subirla questa informazione, non puoi far altro che prenderla addosso. E se tu non sei schermato, se tu non sei preparato, alla fine questa cosa ti entra nel cervello, oltre che te bagna tutto, no? E questo secondo me è il vero problema. Cioè, noi tantissime volte abbiamo parlato di social network senza fare veramente un discorso organico, perché quanto ha cambiato la nostra società la presenza di un sistema, non di comunicazione, perché noi pensiamo che sia un sistema di comunicazione, ma quello che noi esprimiamo sui social network non è niente rispetto a quello che riceviamo. E se prima consideravamo la televisione pericolosa da questo punto di vista, potete immaginarvi quanto lo sia uno strumento che in realtà è 10 volte, 100 volte più potente. Perché la televisione alle brutte la potevi spegnere, i social network no, perché il social network, anche se lo spegni tu, non lo spegne quello che sta accanto a te. E l'informazione è in costante giro, l'informazione per quello che è. Questa è una cosa abbastanza importante. Bisognerebbe osservare il fenomeno dei social network in senso globale e vedere quanto hanno trasformato in pochissimo tempo e quanto hanno contribuito alla degenerazione, alla capacità informativa, al disinteresse culturale nel nostro paese, tirando fuori tutta quella, il nostro paese in generale, ma anche negli altri paesi, perché questo è un fenomeno che oramai è globalizzato. Noi parliamo dell'Italia perché comunque è la realtà che conosciamo di più, no? Tirando fuori comunque tutta quella brutalità che in una parte della popolazione probabilmente è sempre esistita, ma siccome che non tutte le realtà accedevano a determinate forme di distribuzione del proprio pensiero, alla fine comunque rimanevano isolate, emarginate. Oggi comunque, esprimendo questa rabbia, questa incapacità di comprendere, questa voglia di comunicare comunque l'odio, alla fine questo messaggio arriva ovunque. E arrivando ovunque, ovviamente, arriva a chiunque. Questo è un dato di fatto. Quindi non c'è più la possibilità di spegnere la televisione. E allora cosa è cambiato? È cambiato questo, è cambiato il fatto che tramite il social network, questa la gente non riesce a capire, no? Soprattutto i complottisti vedono il complotto in senso globale, avendo accesso a informazioni che dovrebbero essere puta caso ultra segretissime, ma loro lo sanno, però non si rendono conto che il vero complotto è quello più semplice, è quello di essere manipolati da un'informazione molto più semplicemente di quanto veniva fatto prima dai giornali, perché sta gente se la prende coi giornali e coi telegiornali, che schifo la stampa del regime, ci manipolano il cervello, e non si rendono conto che tutta quest'altra merda, che è studiata per essere una comunicazione semplificata diretta alla pancia della gente, rappresenta essa stessa, anzi in primo luogo, una vera manipolazione. Questa è una cosa importante. E quindi cos'è cambiato? La democrazia degli anni 70-80 rispetto alla democrazia degli anni 10 del 2000. Che cosa è cambiato? È cambiato questo. È cambiata l'incapacità di avere un politico in grado di prendersi la responsabilità di quello che sta facendo e di non preoccuparsi del fatto che le prossime elezioni potrebbero esserci conseguenze. Perché ci saranno conseguenze, perché ogni volta il pensiero della gente si degrada ogni giorno di più verso dei presupposti che sono quelli della disgregazione, dell'odio, della separazione. Quindi io apprezzo Conte poi da questo punto di vista, perché con tutti gli errori che sicuramente sta facendo dal punto di vista della comunicazione, dell'impreparazione dal punto di vista politico. È una persona che in questo momento si sta prendendo una responsabilità, che è quello che facevano i politici 30 anni fa, perché erano degli statisti che erano lì e facevano il loro dovere, che era quello di trovare la soluzione migliore a un contesto di crisi che era collettivo, che riguardava tutti. Oggi i politici in generale non sono in grado di esprimere questo tipo di responsabilità, perché loro essi stessi non hanno un'idea, ma la loro idea, soprattutto nelle forme politiche più becere, più populiste, si modifica di giorno in giorno a secondo di quello che leggono su Facebook, a secondo di quello che i loro team di comunicazione, di marketing gli dicono di dire, perché è quello che è il flusso che arriva dalla pancia di Facebook. Quindi non c'è più la politica e di conseguenza non c'è più la democrazia. Ma non è la democrazia in sé che è un fallimento, e chi questa democrazia la gestisce la dovrebbe elevare da questo punto di vista, che non è più in grado di farlo perché non ha più un presupposto ideale, anche ideologico, perché noi abbiamo combattuto per 30 anni contro le ideologie ed è proprio l'ideologia quella che manca, lasciando spazio a dei pensieri assoluti che sono peggio di quelli che c'erano quando c'erano le ideologie in Italia, tirando fuori cose che avrebbero dovuto restare sepolte, e invece no. Perché che schifo l'ideologia, come se il comunismo fosse l'unica ideologia. Però il fascismo va bene. E nella prossima puntata parleremo di questo, perché per una ragione specifica che scoprirete questa sera, noi abbiamo fatto una ricerca durante questi giorni. Ed è una cosa, abbiamo scoperto una cosa che è ovvia, però quando ti ci trovi davanti e finisci di scherzarci e ti... Tim, io mi sono fermato quasi subito perché a me mi fa schifo, mi fa letteralmente schifo, e sono assolutamente d'accordo con Sandro Pertini che diceva che il fascismo non è un'idea. Fate schifo, siete delle merde, perché vi mettete a pappagallo a ripetere cose di cui non sapete niente, non avete consapevolezza, non avete assistito, e lo fate soltanto perché gli altri lo fanno insieme a voi, perché siete un branco di pecore. Quindi la democrazia non ha fallito, è l'uomo che ha fallito, perché la politica in Italia è una politica rappresentativa e oggi i politici rappresentano gli italiani, ossia lo schifo. E l'unica cosa che mancherà sempre è un politico che dice: regà, fate schifo. E con questo ricordatevi sempre che è buongiorno, sì, ma è buongiorno un cazzo.